E bentornate e bentornati in diretta. Questo è il simposio al buio Stivi. Io sono Alessandro Brighetti, conduco tutto ciò e abbiamo finalmente un'idea di metodo o di metodi di ascolto. Tutto si svolge logicamente nell'ambito soggettivo, del soggettivo. Le orecchie sono pronte a ricevere degli input e nel nostro simposio entra in gioco il suono, il significante che raggiunge il nostro sistema uditivo costantemente. Allora noi partiamo dalle due principali tipologie di suono, la parola e la musica. I nostri prossimi autori le innervano per produrre un terzo significante e quindi diamo il benvenuto a Giada Landretto del laboratorio Melologos, composto da Stefano D'Arcangelo, Buminguno e Giada Landretto stesso. Giada, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, il laboratorio Melologos è un laboratorio di sperimentazione musico-letteraria. Lavora sul punto di intersezione fra melodia e parola, realizzando podcast, radiodrammi in musica, novelle e Sprechgesang. Spero di averlo pronunciato bene. Mi scuso perché non ho mai studiato il tedesco. Leggo dal vostro manifesto: si parte sempre da qui. Silenzio, ascolto, relazione, suono, musica, voce, armonia e narrativa per navigare verso la produzione di un lavoro collettivo. Allora, Giadel, nel 1750 Johann Eberlin produce il primo melologo, Def, associando all'interpretazione di un testo una sincronica parafrasi musicale. Verrà tacciato di ingenuità inevitabilmente, ma l'accostamento di queste due arti ha infinite possibilità pratiche e teoriche. L'ascolto della compenetrazione di quelle due arti sprigiona tutto il propellente del proprio immaginario. Ma sì, già nel Settecento, insomma, il nostro Eberlin aveva scoperto l'acqua calda, diciamo, cioè aveva messo insieme più forme d'arte e quindi aveva sperimentato quello che oggi comunemente va sotto la definizione di, se vuoi, reading sonorizzato. Mm-hmm. Insomma, sostanzialmente prendeva un testo e lo leggeva accompagnato da un ensemble. All'inizio, appunto, venne un po' tacciato di ingenuità per aver fatto questo incredibile passo per l'umanità. Ma in realtà, secoli dopo, abbiamo riscoperto questa forma di miscelazione di quale scienza, di arti. Io direi che un altro punto in cui si può inserire una svolta per quanto riguarda questa forma d'arte, cioè il melologo o reading sonorizzato, chiamatelo come volete, è la San Francisco degli anni 60, no? Quando cominciano ad esserci gli happening in cui si legge poesia accompagnati da musica, spesso improvvisata o comunque accompagnati da musicisti. Penso anche a un autore musicista come Gil Scott Heron, che portava le sue poesie su un tappeto sonoro, no? Poi, per arrivare in Italia, certo, le sperimentazioni degli anni 70, ma secondo me, soprattutto, anzi, restringiamo ancora il campo, Italia, Bologna. Ecco, Bologna è stato un luogo in cui questa forma d'arte ha trovato diverse direttrici e diversi sfoghi, diversi esiti. Non so, già Stefano Tassinari con i suoi spettacoli, La Compagnia Fantasma, che da oltre vent'anni fa. A cui va il nostro saluto, in cui oltre vent'anni fa faceva esattamente questo, cioè metteva in scena in chiave teatrale dei testi musicati. Musicandoli, portandoli su un palco, quindi un'ulteriore commistione di arti e di pratiche. Poi a livello anche rock, voglio dire, no? L'Emilia ha dato i natali a band come i CCCP, che comunque un po' si avvicinavano a questo tipo di narrazione su musica, ma soprattutto ai massimo volume, ovviamente. No? E quindi noi ci inseriamo in questo solco, no? Il laboratorio Melologos nasce inizialmente da una necessità. Ricordo, erano ormai 10 anni fa, nasceva il cantiere permanente Resistenza in Cirenaica, un cantiere che si occupa di narrazioni relative alla memoria difficile, al passato coloniale italiano, alla resistenza, al nazifascismo, e con abbastanza naturalmente, visto che molti di noi provenivano o dall'esperienza della Compagnia Fantasma o comunque da altre esperienze di reading sonorizzati, abbiamo messo insieme le cose, siamo saliti su un palco, abbiamo cominciato a raccontare delle storie accompagnandoci con gli strumenti. Vuoi che alcuni di noi appunto sono scrittori di mestiere e magari musicisti per passione, ecco, metti insieme le due cose ed è stato abbastanza naturale arrivare a questo punto. Tu credi che lo spoken word sia una forma sublimata di melologo? Ma forse sì. La differenza sostanziale, secondo me, sta nel fatto che nel melologo musica e voce manipolano il testo e lo trasformano totalmente. Nello spoken word c'è la voce, quindi insomma è come l'audiolibro, no? Ascolti un audiolibro, sì. O un radiodramma, ecco, il radiodramma è un passo ulteriore. Diciamo che laddove la voce lavora in sinergia con la musica e viceversa, la musica crea delle stanze sonore adatte a quel testo, no? E si porta il tutto, poi si veicola attraverso anche una performance. È un po' diverso rispetto sicuramente allo spoken. Lo spoken word è il grado zero, ecco, se vogliamo. Il melologo è un'altra cosa, non c'è solo la voce dell'autore, non c'è solo il testo, ma ci sono anche gli strumenti che parlano. Io con spoken word facevo riferimento a quella forma musicale, diciamo, di matrice inglese nata negli anni 70, anche Linton Kwesi Johnson, per esempio, assolutamente. Poi ha messo in dub lui. Assolutamente. Qui però appunto c'è un ulteriore passo, secondo me, che ha a che fare con una dimensione più teatrale. Lo spoken word di solito, appunto, può avere anche l'accompagnamento musicale, la musica può interagire ovviamente col testo, ma nel caso del melologo, per come lo intendiamo noi, oltre alla dimensione sonora degli strumenti, alla dimensione vocale, c'è anche una dimensione teatrale o addirittura da concerto punk. cioè proprio è abbastanza assaltante, è una dimensione abbastanza coinvolgente. Di solito lo spettatore non è semplicemente lì che ascolta qualcuno che gli racconta una storia, ma partecipa a un vero concerto molto simile a quello che era un concerto punk, se vogliamo. Sono di certo due arti che sprigionano l'immaginario individuale e il fruitore del melologo, per esempio, completa con il proprio immaginario il prodotto che sta ascoltando. Questo fa sì probabilmente che il fruitore sia un coautore quasi. Sì, perché c'è comunque sempre un margine di improvvisazione e di interazione con chi viene ad ascoltare. Uno degli ultimi lavori che abbiamo portato in giro per quasi tutta Italia, in vari teatri, è stato la trasformazione sonora di due libri. Abbiamo interlacciato, abbiamo fatto collassare l'uno sull'altro UFO 78 di Wu Ming e la bilogia, diciamo così, che mi vede autore di due libri usciti per Rizzoli, che sono La parola amore uccide e Tutta quella brava gente. Abbiamo fatto collassare questi due libri l'uno sull'altro, tirando un filo narrativo che trovasse i punti in comune e, come dire, creasse una sutura tra questi due testi, e poi abbiamo costruito tutto un lavoro musicale per una band di 5-6 elementi. Quando la portavamo sul palco c'era un piccolo margine di manovra per quanto riguarda l'improvvisazione e anche un lavoro di domanda e risposta con il pubblico, a cui chiedevamo di prendere parte a questa narrazione collettiva, evitando addirittura di applaudire. Cioè, avevamo costruito una suite di un'ora e un quarto ed era totalmente immersiva per chi l'ascoltava, sia dal punto di vista musicale che teatrale che narrativo. Tu sai, Jadel, che l'umanità parla all'incirca 7.000 lingue. Tutte logicamente si basano su questo rapporto indistricabile fra suono e senso, in relazione poi a ciò che è l'ambiente. E se il concetto di gatto è univoco e universalmente condiviso, i suoni per esprimere il concetto di gatto sono potenzialmente infiniti. Io credo che il suono sia per le persone ciò che il sole è per la luce, ovvero una fonte generativa, un propellente sicuramente per la cultura. Ma insomma, voglio dire, l'universo è nato da un suono, da una vibrazione, quindi direi bello. Che sicuramente sono d'accordo con te, no? Hai voglia di dire che insomma la luce fu, no? Il suono fu. il Big Bang è un'esplosione sonora, è una vibrazione che si espande nello spazio e crea delle cose. Credo che sia sono totalmente d'accordo con quanto mi sta dicendo. Effettivamente funziona così. Poi esistono dei procedimenti intellettuali veramente complessi, per esempio faccio riferimento al monitoraggio del linguaggio, grazie al quale ci rendiamo conto delle storture di senso, degli errori lessicali e grammaticali e li correggiamo così in maniera istantanea, subitanea. Trovo incredibile sinceramente questa nostra capacità di relazionarci con l'istante. Mi chiedo e ti chiedo, secondo te, come si può traslare questa nostra capacità dal linguaggio all'ascolto? Questo è altrettanto un punto periglioso, secondo me, perché tra chi ascolta e chi parla naturalmente c'è uno spazio, no? E quello spazio si riempie di suoni e quei suoni hanno dei significati, dei sensi. Mentre io mi correggo in modo incredibilmente veloce mentre parlo, io non sono del tutto sicuro, non lo sono mai, del fatto che il mio gatto sia esattamente il gatto che arriva alle tue orecchie, no? Quindi se io riesco a correggermi mentre sono in corsa, non è detto che tu corregga il suono che senti da me, dall'input che ti do. Per cui siamo sempre secondo me in un ambiente, o comunque in un ambito che ha a che fare con la magia. C'è qualcosa di magico, no? Nel suono. Io dico, esprimo, no? La mia gola, le mie corde vocali, i miei muscoli articolano, il mio teschio si muove e butta fuori dei suoni, e quei suoni arrivano alle tue orecchie, che altrettanto meccanicamente, no? Li introiettano, e lì però succede qualcosa di magico, perché se io dico trattore, tu e gli ascoltatori in questo momento nella loro mente abbiamo subito l'immagine. Cavolo, se non è magia questa, quindi il suono è pura magia. E la parola stessa è magia. Non è un caso, secondo me, che, voglio dire, in inglese to spell significhi sia accompitare, no? O comunque dire una lettera dietro l'altra, ma significa anche lanciare un incantesimo, no? Ecco, secondo me la più grande magia in assoluto è proprio quella del suono, che è in grado di evocare degli oggetti, delle idee, dei concetti. È una potenza incredibile, molto più, secondo me, sostanziale, se vuoi, di quella dell'immagine. Ok, l'immagine è più immediata, il suono è sincronica, esatto, totalmente. Il suono invece no, è un po' è a che fare naturalmente col linguaggio, col fatto che comunque il linguaggio formi il pensiero. Ci sono 7000 lingue, bene, ci sono 7000 architetture mentali diverse, ok? Quando si prendono in giro ad esempio i tedeschi perché sono ordinati, vabbè, ma è chiaro, hanno una lingua ordinata, tu il verbo lo devi mettere lì, quindi se pensi in quel modo lì sei più ordinato di un italiano che può mettere il verbo un po' dove vuole e quindi un po' più confusionario. Un po' più entropico. Esatto, un po' più entropico. Ascolta, già il laboratorio Melologos ha prodotto per questo simposio un contributo. Vogliamo parlarne prima, sì, di ascoltarlo? Allora, si tratta di Un serpente in giugno. Ed è una spettrografia di una città. È una narrazione che abbiamo creato qualche anno fa per uno spettacolo che portavamo in giro e faceva parte di un sempre del cantiere culturale Resistenza in Cirenaica, in cui raccontavamo storie di colonialismo, resistenza, eccetera, eccetera, come dicevo prima. In questo caso abbiamo raccontato un luogo che per molti è poco noto o bizzarro, se vuoi, e che in realtà ha attirato la nostra attenzione per vari motivi. Uno, perché io vengo da quel luogo, molto semplicemente. Due, perché è una colonia, è l'ultima colonia rimasta dell'Italia fascista, e sto parlando del Sud Tirolo. Quella città lì è una città particolare, Bolzano, una città dalla doppia, tripla, quadrupla anima, e in cui, sempre per tornare alla vibrazione, le particelle delle persone che vivono lì, italiani e tedeschi, vibrano a velocità diverse, no? I suoni, la lingua, sono in costante tensione, no? E quindi ci sembrava interessante esplorare questi luoghi con il suono, con i suoni e con la voce che si sposta in una psicogeografia, se vogliamo, rispetto a quella città, una psicogeografia fatta di strade, vie, ma anche di ricordi, ricordi personali, di sensazioni che ho provato sulla mia pelle. Io, come lì ci sono due lingue, anch'io ho due, sono scisso rispetto a quel luogo, perché la metà della mia vita l'ho vissuta qui e metà della mia vita l'ho vissuta là. Quindi abbiamo deciso di fare quel tipo di esplorazione perché in essa confluivano più direttrici, una direttrice che aveva a che fare con i ricordi, una direttrice che aveva a che fare con la geografia, una direttrice che aveva a che fare con la storia, con la politica, e ci sembrava che quel pezzo potesse in qualche modo rappresentare il lavoro che facciamo con Melologos. E allora noi ringraziamo già dell'Andretto, componente assieme a Stefano D'Arcangelo e Vumingo 1 del laboratorio Melologos, e ascoltiamo il contributo che avete portato al simposio Al Buio Stivi. Giadel, ti ringrazio. Grazie a voi. Un serpente nero si dimena e sibila in mezzo all'incrocio. L'asfalto è rovente. Il cielo blu d'oggi è altissimo. Il semaforo scatta. La temperatura sfiora i 42 gradi. In giro non c'è nessuno e Piazza Mazzini è pura metafisica. Il terrazzo dell'attico all'angolo era un rigoglioso giardino pensile. Ora non c'è nulla, nemmeno un ramo secco. Negli anni 80 ci abitava un politico, uno di quelli travolti dalla tangentopoli locale, ma nel 1988 sembrava Beirut. Una bomba scoppia davanti alla sede della RAI, 10 kg di esplosivo sistemati sotto un furgone. Il tettuccio vola sul tetto del palazzo di 7 piani tra le antenne paraboliche, 20 metri di altezza. Il guardiano notturno si ritrova ricoperto di vetri, di schegge. 4 delle auto posteggiate vengono distrutte. Sono tutte Fiat. Il cratere è profondo 30 centimetri. La mia Bolzano è quella lì, quella dell'infanzia, della fine degli anni 70, l'inizio degli anni 80, ma è anche quella della mia giovinezza, gli anni 90. C'è ancora irrimediabilmente qualcosa di quella città nella Bolzano di oggi, anche se molto è cambiato, a partire da me stesso. La bomba alla sede della RAI, l'infanzia, è esplosa in Piazza Mazzini, dove Corso Italia e Corso Libertà si incrociano. Italia e Libertà sono un incrocio di parole da maneggiare con cura da queste parti. Siamo nella zona di Piazza Vittoria, in cui sorge il monumento con i fasci littori e con quella scritta. Da qui educamo gli altri alla lingua, al diritto, alle arti. Ma quel monumento segna anche un altro di confine, quello tra il resto della città e il centro. Ma lì, tra Piazza Mazzini e Piazza Vittoria, verso Gries, si diramano una serie di strade dalla toponomastica schizoide. Locatelli, il leone di guardia di D'Annunzio, caduto nella guerra di Etiopia. Reginaldo Giuliani, che fece la marcia su Roma, partecipò al conflitto in Africa come cappellano delle camicie nere. Sono i dirimpettai di Manilo Longon, partigiano, capo del CNL di Bolzano, impiccato dalla Gestapo. E del conte Gian Antonio Manci, antifascista, eroe della Resistenza, che pur di non rivelare i nomi degli altri partigiani, si è buttato dal terzo piano del quarto corpo d'armata. Tra loro c'è Via dei Combattenti. E lì vicino Armando Diaz e Cadorna si incontrano come da copione in piazza 4 Novembre. Sono le due arterie principali del rione, che si infilzano nella parte tedesca del quartiere come uno stiletto, sbattendo contro Via Fago e trasformandosi in una via dedicata a un pittore che però, su un fianco, c'è la un cul-de-sac, una stradina che in pochi conoscono, via Tripoli, luogo di crimini del colonialismo italiano, che assieme ad Ambalagi celebra una delle pagine più marce della nostra storia di brava gente. Uno stridio, un'unghia sulla lavagna, uno strisciare di metalli in mezzo a una manciata di paesaggisti austriaci. Via Cadorna è la giovinezza. L'ho percorsa per anni, avanti e indietro, tutte le mattine. Ogni volta che ci ripasso, rimetto i piedi dove li ho posati milioni di volte. Se il tempo venisse abolito, il marciapiede sarebbe pieno di miei doppelganger. Sarebbe così affollato che tra spalla e spalla non passerebbe uno spillo. Ma l'illusione del tempo non è ancora stata abolita. E io, per tutti gli anni delle superiori, ho percorso quella strada 6 giorni alla settimana, 9 mesi l'anno. Da un lato, le passeggiate. Dall'altro, una serie di edifici razionalisti, tra le caserme e gli istituti tecnici. Nell'atrio dell'ITC, un Mussolini in bronzo saluta gli alunni. È un bassorilievo che non suscita nessuna emozione. È lì, è un complemento d'arredo su cui nessuno si sofferma mai. E allo stesso modo il bassorilievo in sal sequestro del Duce in piazza Tribunale, terminato negli anni 50, come molte altre tracce del fascismo, è sempre stato lì, fa parte del paesaggio. È sbiadito nel quotidiano, è assimilato. Sì, è stato al centro di battaglie politiche, di malumori intellettuali, ma nella vita dei bolzanini è assolutamente irrilevante. Con il passare delle generazioni, monumenti, scritte, bassorilievi, effigi diventano parte del paesaggio. Sono geroglifici privi di significato. Sono lì, sono sempre stati lì. Chissà chi, chissà cosa sono. Ma sì, ma in fondo chi se ne frega? Perché, come diceva Cioran, il tempo, complice degli sterminatori, atterra la morale. Chi è che oggi ce l'ha ancora con Nabucodonosor? Provate a immaginare. Bolzano è una città operaia dove si producono carri armati per l'esercito americano, dove si aggirano 3 serial killer e nel frattempo saltano in aria alcuni quartieri a colpi di bombe. La scritta in Tirol compare sui muri, prontamente arricchita di una cappa. Cain, Tirol. Sì, oggi c'è l'università, c'è tutto e tutto è benedetto dalla provincia, tutto è svedesemente socialdemocratico. Ma a me, ogni volta che sento Colony dei Joy Division, viene in mente che tutti quelli della mia generazione sono figli o nipoti di coloni. È strano a dirsi. Veneto, Trentino, Friuli, Istria, Calabria, Sicilia, Campania. Quando dopo l'annessione del Sud Tirolo, il Duce ha trasformato Bolzano da centro commerciale in centro industriale, lo ha fatto per incentivare i flussi migratori dal resto d'Italia. Lo ha fatto per italianizzare la nuova colonia. Nel frattempo il regime ha fatto in tempo a cadere, ma i coloni si erano già stabiliti e la zona operaia si era espansa in un reticolo di strade italianissime. Via Genova, Parma, Brescia, Cagliari, Palermo, via Alessandria, via Bergamo, Aosta, Torino, Milano, via Rodi, Treviso, Roma, Napoli, via Arezzo, via Verona, via Firenze. Ma già da quelle parti alle tute blu si preferivano i colletti bianchi. Provate a immaginare. Un flusso migratorio di migliaia di persone di cultura e lingua diversa dalla vostra si installa sul vostro territorio, spinto da povertà, fame, guerre, calamità naturali. E voi siete costretti a sottostare alle leggi dei nuovi arrivati, a imparare la loro lingua, a cambiare il vostro nome, quello dei vostri morti sulle lapidi e dei luoghi in cui vivete. Toponomastica è una parola che a Bolzano impariamo già all'asilo. È una questione assurdamente, tragicomicamente spinosa. Come si chiama un luogo? Chi gli dà quel nome? Parigi è Paris? London è Londra? Bolzano è Bozen? E Bozen è Bolzano? O sono 2 città parallele? Come se per qualche motivo le particelle di italiani e tedeschi vibrassero a 2 velocità leggermente diverse, occupando lo stesso spazio e lo stesso tempo, ma non la stessa dimensione. Arrivare a Bozen partendo da Bolzano è uno dei viaggi più bizzarri che abbia mai fatto. Durante il processo di italianizzazione della colonia negli anni 30, Ettore Tollomei venne incaricato di sradicare la toponomastica sudtirolese. E così si macchiò dell'efferato delitto di nomicidio, un atto di magia nera. Perché dare un nome alle cose significa evocarle. Nominare qualcosa serve a farlo apparire, è un incantesimo. Ma rinominare qualcosa è un atto di necromanzia, ha a che fare con la morte, con la putredine. Tolomei uccise con una penna millenni di tradizioni e di culture, in favore di altre. Il Rosengarten, la montagna incantata che si tinge di rosa e abbraccia la città, è diventata un catinaccio. il mito eziologico, la leggenda è crollata. La poesia si è sgretolata sotto i colpi di una penna. Disinnescare una mitopoiesi, una tradizione, una lingua e una cultura ha innescato un incantesimo cercando di annichilirne un altro. Giardino delle Rose e Catinaccio non sortiscono lo stesso effetto, non evocano la stessa cosa, sono magie diverse e la psiche di chi vive all'ombra del Catinaccio o alle pendici del Giardino delle Rose subisce l'incanto in modo diverso. Tolomei ha scelto di lanciare un incantesimo dalle conseguenze plumbee, metalliche, in assonanza con il rumore delle fonderie e dell'acciaio colato. Lo stesso che ha tolto l'udito a molti operai, lo stesso che scandisce i giorni di chi lavora per costruire carri armati americani. Le idee sono come i metalli. Hanno un suono. E il suono di Bolzano è un suono fatto di metallo. Come quello delle band che provavano nelle cantine, nei garage quando ero adolescente. Bolzano. Città operaia dal suono operaio. Ma è ancora così? Come diceva Fitzgerald, è buffo tornare a casa. Tutto lo stesso aspetto, lo stesso odore. Ti dà la stessa sensazione di sempre. Ti rendi conto che l'unico essere cambiato sei tu. E allora riprovo la vertigine di ripercorrere il labirinto dei passi e del tempo. Da Piazza Verdi, dal nuovo teatro, dove una volta sorgeva un polveroso parcheggio sgangherato, imbocco via Marconi con gli internet point pakistani, supero la questura, scavallo Ponte Druso, che come diceva mio nonno ultracomunista era comunque meglio quando c'erano le aquile del ventennio, passo davanti all'Eurac, sorta sullo scheletro dell'ex Gil, e piego su Viale Trieste, fino ad arrivare al Lido. È lo stesso percorso che facevo in solitaria quando avevo 8 anni per andare a scuola. Dove oggi c'è la ciclabile c'era il terrapieno della ferrovia e prima del ponte c'era una spianata con un'officina. Per me era una scorciatoia, mi infilavo nel cortile di terra rossa tra rottami e cani spelacchiati e lo attraversavo per tutta la sua lunghezza. Salivo una scaletta arrugginita che portava all'entrata di un cinema a luci rosse e a un campo nomadi e sbucavo all'inizio del ponte. Se abolissimo il tempo, io e il bambino che ero ci pesteremo i piedi e formeremo un'unica stramba creatura. I ricercatori dell'Eurac che assisterebbero alla proiezione di un porno e chi legge il giornale nel caffè lungo il fiume lo farebbe in una roulotte. Il ponte da cui parte il viale che costituisce la spina dorsale della città ha un nome che ho sempre dato per scontato. Druso. Ma chi era? E una volta scoperto chi era, allora Bolzano è romanamente Italia, come dice lo slogan di certi manifesti, o è Austria, o è Tirolo. Da via Druso, poco prima del ponte che separa il centro dal resto della città, in direzione della fascistissima Piazza Vittoria, già Piazza della Pace, già Piazza Vittoria, si può imboccare Viale Venezia, chiamato così perché le case furono costruite dalla Serenissima e perché Casanova passò un po' di tempo nei vicoli tagliafuoco del centro. Da lì si può risalire anche via San Quirino, tribuno romano votato al martirio, e tra Venezia e Quirino ci sono via Fiume e via Zara, a ricordare la comunità istriana. Ma c'è anche via Peter Mayer, che prese parte all'insorgenza tirolese a inizio 800, liberando per qualche mese, sotto la guida di Andreas Hofer, il territorio dall'occupazione franco-bavarese. Hofer, che poi è diventato un simbolo del movimento anti-italiano, a cui è dedicata una strada in centro, che corre parallela a via Cavour. Dalle parti della stazione si celebra un altro Mayer, Josef Mayer Nusser, che quando fu il momento di decidere se restare nel Sudtirolo italiano o andarsene nei territori del Terzo Reich, decise di rimanere, ma venne arruolato forzatamente nell'SS. Il suo rifiuto di prestare giuramento lo condusse al campo di sterminio di Dachau, in pieno cuore di tenebra. Grande la confusione sotto il cielo di Bolzano. Grande la confusione nei cuori assopiti dei suoi abitanti, che sotto l'influsso di tali e tanti incantesimi toponomastici vagano, inconsapevoli del peso magico che grava sulle loro spalle, in preda al volere capriccioso dei nomi e dei numi. Sono tutti, non solo io, come serpenti neri che si dimenano in mezzo in croci roventi. e abbiamo sospeso la parola e ci siamo concentrati sul suono sublimato, quale grimaldello per entrare in stati più profondi di coscienza. Lo abbiamo fatto con Carlo Maver, di cui abbiamo sentito un solo di bandoneon qua nei nostri studi in diretta. E allora diamo il benvenuto a Carlo Maver. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, Carlo. Carlo Maver, sei un flautista, un bandoneonista, un compositore, ideatore e direttore artistico di vari festival musicali, nonché sei un autore letterario. Allora, Carlo, quando sogni, il tuo timpano reagisce ai suoni che sogni. Il suono e l'ascolto sono sì un fenomeno fisico, fisiologico, cognitivo, intellettivo, ma lo sono soprattutto a livello emotivo. E per quanto mi riguarda, il tuo approccio al pentagramma punta in modi centripeti alla mistica ed in senso allargato alla spiritualità, all'interiorità, alla cura, direi. La musica e l'ascolto consapevole assurgono a mezzo privilegiato e diretto alla trascendenza. La composizione della partitura, l'armonia, il timbro, la melodia, Carlo, di cosa sono intrisi per eccitare queste corde così sottili? Ma allora adesso non voglio rispondere da fenomeno, però tipo diciamo un po' da... Secondo me devono essere intrisi principalmente di vita, diciamo, nel senso che è un po' una cosa che ha sempre fatto poi parte del mondo della musica e del mondo delle arti in generale, nel senso dove anche a discapito magari dell'estetica e della tecnica, però viene fuori appunto quello che ti ha attraversato in un certo senso. Io personalmente, con i miei limiti, con le mie possibilità, è la cosa alla quale tengo di più, nel senso che vengo fuori in quello che provo a fare, in quello che faccio, e che lo faccio non è che lo faccio per dimostrare che faccio questo, ma lo faccio perché bene o male è una necessità ed è diventata una semplice forma di espressione. Una semplice forma di espressione che a quanto pare ti riesce fantasticamente. Abbiamo così menzionato il timbro che io da troglodita e quantomeno da non musicista, per me il timbro è un'entità inafferrabile, sfugge alla codificazione e infatti non ha una unità di misura. Immagino che un compositore riesca ad ascoltarselo nella propria testa. Il timbro, il timbro di uno strumento, cioè il timbro è qualcosa che è collegato principalmente a uno strumento, nel senso c'è il timbro di uno strumento piuttosto che di un altro. Io ultimamente, suonando molto da solo, non ho sto gran problema, diciamo, perché è una cosa che di solito, nel senso così, diciamo così, per la convivenza di vari timbri, nel senso così, si sente, diciamo così, questa necessità più in formazioni orchestrali o comunque di gruppo, tipo eccetera. Per quanto riguarda invece i miei strumenti, la ricerca dei vari timbri, nel senso adesso il bandoneon magari un po' meno perché ha un po' meno questa possibilità, però mentre i flauti magari che lo puoi suonare soffiato, lo puoi suonare con il suono parlato, sporco, ci sono tante tecniche e tanti timbri che effettivamente puoi tirare fuori e senti veramente, no, insomma, così una... Sì. Quando componi o quando improvvisi, eccetera, eccetera, sei connesso con questo tipo di enfasi o meno, o di questa cosa che può ricordare questo timbro, ed è quella che ricerchi. Tu sai che nel 1997 a Parigi, inevitabilmente a Parigi, succede che Jacques Derrida intervista Ornette Coleman. E lo intervista sulla teoria dell'armolodia, ovvero la teoria musicale del Coleman stesso per l'improvvisazione e la composizione. E senti cosa dice Coleman. Coleman dice: recepisco ogni sorta di suono nel proprio suonare senza dover rinunciare alla mia identità nel processo. Credo quindi che ascolto e creazione fluiscano all'unisono, diciamo, in un ciclo che si autoalimenta, e anche questo, a parere mio, è una forma di trascendenza. Ma io, guarda, trovo che almeno quello che ho sperimentato in questi anni, in questa ricerca del suonare da solo e del suonare in ambienti riverberati, eccetera, eccetera, un certo tipo di ascolto ti porti proprio, io quello che ho trovato veramente interessante è che attraverso questo ascolto, che intanto non è, cioè, ascolto può sembrare anche una parola banale, credo che oggi sia stata proprio una giornata dedicata a sbanalizzare questa parola e ad approfondire, e ti ringrazio personalmente perché è veramente una boccata d'aria sentire parlare di questa cosa in questo modo. L'ascolto, l'ascoltarsi, l'ascoltare, l'ascolto anche che hai detto prima, è qualcosa che veramente ti può portare in un altro stato, cioè in un altro stato psicofisico, no? Tipo, certo, diciamo, e questo influenza il tuo modo di suonare del momento, e la cosa, beh, anche se non è proprio improvvisazione, no? Perché molto spesso si collega comunque il momento con l'improvvisazione o qualcosa. L'improvvisazione, secondo me, può essere veramente, cioè può avere tantissimi parametri, da una dinamica improvvisata, una cosa, un rallentamento. Io mi sono ritrovato le prime volte che suonavo, cioè le prime volte che avevo scoperto, suonando in delle chiese o degli ambienti molto riverberati, la meraviglia di non distruggere ma dilatare la mia musica, perché ascoltando in quel momento sentivo completamente questa necessità. E questo piano piano, una cosa che ho trovato bellissima è che ti allontana anche da, e qua si collega alla trascendenza, ti allontana dalla tua funzione di tu l'artista che stai suonando, che ti dico chi sono, tipo, eccetera eccetera. Piano piano invece proprio vai verso il suono, vai verso proprio il togliere, il goderti la meraviglia di questa vibrazione, di questo che per me scoperta massima. Io ho trovato veramente in questi concerti che sto facendo da solo, quando riesco a portare e a godermi quel silenzio che porta la musica, è il momento più nutriente e più alto che io possa creare all'interno di un concerto. E per me questa, cioè, sembra quasi veramente che la musica sia fatta quasi per quello, per svelare tutto all'interno di quel silenzio. Hai introdotto un tema magistrale, a parere mio, perché per quanto possa apparire retorico, dal mio punto di vista non lo è. Bisogna sapere ascoltare anche il silenzio. Assolutamente, perché, cioè, il silenzio, anche il silenzio, intanto c'è, cioè, silenzio e anche ascolto, che l'ascolto non è solo per me l'ascolto, come quando riesco a creare dei momenti di pausa, appunto dei momenti di silenzio all'interno di un concerto, questo ascolto, senti che non è silenzio, non è assenza di suono, ma sì, non è... siamo mai in una stanza anecoica, ecco. No, ma non tanto quello, quanto proprio senti una cioè è un silenzio, è un'aria vuota che tagli col coltello, okay, nel senso, cioè, okay, pesa dei quintali e senti proprio in quel silenzio lì, in quell'ascolto lì, c'è tutta l'energia umana possibile. E un'altra cosa per me meravigliosa è che io ho la fortuna in quel momento, quasi una funzione quasi sciamanica, di avere questa possibilità di riempire quest'ambiente di suono e silenzio e di portare un po' tutti nello stesso posto, di unire tutta un'energia, capito? No? E questo per me è meraviglioso. Beh, stai assolutamente sostenendo che la musica sia una grande responsabilità. E così l'ascolto. Assolutamente, e per quanto mi riguarda proprio il fatto di rendermi conto di poter essere un tramite di questo silenzio e di questo ascolto sulla faccia della terra, di avere questa possibilità di creare questi secondi di idee, è una cosa che personalmente mi ha cambiato la vita e anche mi ha dato questa responsabilità e questa anche funzione sociale, se vuoi, certo, della musica, che prima a un certo punto invece dice, ma faccio questo, ma perché lo faccio? Ma perché lo faccio? Nel senso che magari sta roba qua la fa lui 100.000 volte meglio, oppure dimostrare o far vedere che cosa è una cosa che invece questa cosa qua ha una nobiltà, secondo me, molto alta. precisamente, Carlo, tu hai introdotto il nostro discorso con un fantastico solo di bandoneon e prima di salutarti ti chiederei di fare un altro solo con il flauto. Un flauto particolare hai? Sì, è un flauto basso. Tra altre cose, pochi giorni fa ho provato anche il flauto contrabbasso. C'è tutto un mondo, una famiglia molto interessante. Suo flauto basso. Carlo, noi siamo sinceramente onorati di averti ospitato qua nel nostro simposio. Che dire, grazie. Per me è stato un onore essere qua e veramente vi ringrazio e ti ringrazio di, insomma, di parlare di queste cose. Ma veramente fatto bene sentirla venendo qua in macchina, mentre stavo venendo qua a sentire la trasmissione, tutti quanti gli interventi proprio mi hanno fatto proprio bene. E allora, Carlo, ascolta il tuo ascolto e ricordati di ricordare.